Kesha tipo bana sasele. Tikwa balenda. Bomba molema. Wambi flora mwana kunku. Bifindu molema. Wambi emi salomo. Oh, Mère Momo, animatrice number one.